Mike Hotel Zulu 168 dalla Sardegna, c'è qualcuno in ascolto? Chi è, avanti. Mike Hotel Zulu 168, qualcuno vi riceve? Avanti, chi sei? Buonasera. Buonasera, finalmente trovo qualcuno in ascolto. Ti sento abbastanza bene, Santiago 7, Radio 5, buono radio. Comunque, da Sassari, Gianmaria. Io in questo momento sto trasmettendo da Usio, dalla chiesa di Santa Bonaria. Arrivi bene, arrivi benissimo, una bella radio, bella pulita. Sì, sì, zona abbastanza alta, quindi in trasmissione sto uscendo bene oltretutto. E io come ci sto arrivando? Mi senti? Bene mi senti a me? Sì, ti sento bene, ti sto ricevendo forte. Ok, sono a Sassari io, Guarda, ti sto ricevendo S9 praticamente, quindi buono davvero e stai modulando davvero bene. Ok. Ma mi stavo ascoltando così, è acceso, e guardando la TV ti ho sentito e ho voluto rispondere. Già, comunque arrivi bene anche tu, dai. Rimango un po' incolico, sì. Comunque, buonasera, ben sentito la primera. Gianmaria Sassari. Sì, mi ha fatto piacere Gianmaria, finalmente sentire qualcuno in zona, è raro, io di solito modulo da Porto Torres, ma da lì non riesco a ricevere niente praticamente. Poca gente c'è poca gente a Sassari, qualche magari verso le 7 qualora qualcuno entra, ma poca gente però, sono in pochi. Ormai c'hanno altre cose da fare, per cui la parte la stanno lasciando a una parte, capito? Ma voi di solito lo trasmettete qua sul 10? Perché mi è capitato di sentire anche qualcuno sul 12, ma sempre raramente. No, qua a Sassari ci sono due o tre che parlano sempre dal canale 10, ecco. Io di solito sono sempre su 23, ma a questo periodo non stavo entrando perché avevo problemi di salute, allora non stavo entrando. Comunque, ad adesso sta più bene, per cui oggi ho voluto accendere e vedere un po'. Dai, ha fatto piacere, ti ho sentito. Adesso che lo so che sul 10 c'è attività, lo lascerò sempre acceso sul 10, almeno così mi farò una chiacchierata volentieri. Verso le 7 troverai senz'altro qualcuno sul 10, capito? Ma non tutti i giorni, comunque la maggior parte alle 7 e poi già c'è qualcuno. Ok, vai, ti devo lasciare, ho fatto piacere averti sentito e buon proseguimento in serata. È stato un piacere anche per me, grazie della chiacchierata, alla prossima Gianmaria. Ok, ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Il Q canale 10. Ora canale 10, c'è qualcuno? Io andavo su. Ora attenzione 10. C'è Q,